Siamo con Lorenzo Balbico, curatore di questa esposizione, che ho già avuto motivo di visionarla con un'altra voce. Ed è come averla vista 10 volte, perché ci sono oltre che contenuti per quanto riguarda l'esposizione che vede protagonista John Giorno. Come arriva a Bologna? L'idea di dedicare quella che a tutti gli effetti è la prima retrospettiva a livello globale su John Giorno è un desiderio di iscrivere anche in un percorso che come Mambo, Museo d'Arte Moderna di Bologna, stiamo facendo di indagine sulle figure chiavi che hanno plasmato il dibattito sulla performatività, sull'incrocio tra differenti media, quei personaggi che secondo noi come museo sono fondamentali nel capire l'evoluzione stessa della pratica artistica negli ultimi decenni, e John Giorno è stato sicuramente una figura chiave in questo discorso. È difficile dire che cosa è stato John Infatti, Giorno. Perché tanto. Esatto, di più, e forse non è neanche giusto volerlo definire in qualche modo, perché John Giorno è stato sì un poeta, ma è stato anche un performer, un artista di arti visive, un musicista. Forse anche la sua vita è stata le sue relazioni, quello che è stato capace a intessere in una New York degli anni 80-90, in cui questa rete di collaborazioni con tutti i più grandi artisti, scrittori, musicisti dell'epoca, era forse la sua vera pratica artistica. Quindi ci sembra che per un discorso sui media, per un discorso sulla performatività, che è il centro della nostra ricerca scientifica, fosse giusto dedicare quella che è sicuramente la prima mostra importante in Italia, e non solo, su questo personaggio. Personaggio che aveva origini italiane, sì. Perché John Giorno ha origini lucane, e in mostra c'è una sezione d'archivio che ha curato Nicola Ricciardi, un curatore che da tanti anni si occupa di letteratura americana e di John Giorno, insieme con Giorno Poetry System, con l'archivio copiosissimo, sì, di John Giorno, è una parte proprio dedicata al rapporto di John Giorno con l'Italia, alla ricerca delle sue origini lucane, ma anche del rapporto intensissimo di John Giorno con la scena appunto performativa di teatro di ricerca, di avanguardia italiana, quindi a partire dalle sue apparizioni al Link di Bologna, che sono testimoniate in modo puntuale, fino alla sua partecipazione a tanti festival di poesia, di teatro sperimentale, di musica. Però il centro dell'esposizione, la grande sala delle ciminiere, di questo siamo molto orgogliosi, ospita Dial a Poem, quindi il progetto più importante, quello più famoso relativo alla produzione artistica di John Giorno, che a tutti gli effetti è un progetto che è stato inaugurato dallo stesso Giorno al MoMA di New York nel 1969, e consisteva essenzialmente in un telefono con la tecnologia di allora. John Giorno aveva già capito che il telefono sarebbe stato il nostro mezzo di comunicazione privilegiato. Adesso io sto parlando a un telefono, lui in qualche modo l'aveva capito già nel 69, e con le tecnologie di allora, che essenzialmente erano le segreterie telefoniche, certo, raccolse poesie, canzoni di suoi amici registrate, e le mise in una segreteria telefonica, proprio perché chi componeva il telefono, il numero di telefono di Dial a Poem, potesse ricevere in modo randomico, senza poter scegliere, in totale libertà e democrazia, in cambio di questa telefonata, una poesia a qualsiasi ora. E Dial a Poem è iniziato nel 1969, ma grazie a Giorno Poetry System continua ancora, perché queste opere sono proprio pensate come una sorta di monumento alla parola, considerate per un'eternità anche nella loro temporalità. E quindi grazie a questa mostra, alla collaborazione con Dial a Poem, con Giorno Poetry System, con la curatela di Caterina Molteni, che ha selezionato 34 poeti e poete italiani, abbiamo realizzato Dial a Poem Italia, che per sempre sarà un'opera permanente del Mambo. Il Mambo sarà il depositario di quest'opera, che è destinata ad accrescersi di nuove voci, di nuove parole. E per la prima volta oggi lanciamo Dial a Poem Italia, che sarà fruibile al Mambo, ma attraverso il numero di telefono 051 030 42 78. Mi raccomando, provateci, io lo faccio tutte le mattine. Chiunque col suo cellulare può chiamare liberamente quando vuole questo numero di telefono per sempre, e riceverà randomicamente in risposta a una delle poesie. Me lo metto in rubrico. Io l'ho già salvato, e soprattutto la sera, quando torno a casa dall'ufficio, certo, chiamo Dial a Poem e ricevo in risposta una poesia. Ecco, questo è un modo sano di utilizzarlo. Esatto. Visto che viene giustamente criticato, questo è un modo sano. Aggiungiamo l'impegno politico, l'impegno sociale che viene testimoniato, la solidarietà con gli altri artisti, sempre esatto, disponibile. Hai fatto molto bene a sottolinearlo, perché non si può prescindere dal narrare, evidenziare fare anche l'attività di attivista, sì, di Giorno, soprattutto grazie a Giorno Poetry System, che John Giorno fondò nel 1965, non aveva neanche 30 anni questa sua fondazione, ma soprattutto negli anni 80 Giorno Poetry System fondò l'AIDS Treatment Project, quindi il primo vero progetto di sostegno ad artisti e artiste malati di AIDS, che consisteva essenzialmente in un supporto economico. John Giorno aveva capito che chi contraeva questo virus perdeva immediatamente il lavoro, veniva isolato, veniva considerato, certo, un emarginato, e quindi il supporto che andava dato loro era essenzialmente economico: pagargli l'affitto, potergli pagare i mancati introiti dal loro lavoro. E quindi fondò AIDS Treatment Project, che raccoglieva fondi, e chi dava i soldi erano proprio, oltre a mecenati, gli stessi artisti. In mostra una ci solidarietà. Sono una catena di solidarietà, raccolsero più di $500,000 per questa cosa. I donatori stessi, in mostra ci sono le lettere dell'archivio, sono Kate Haring, sì, Nan Golding, Patti Smith, quindi troverete anche testimonianze di questa grande attività. E ci permettiamo di dirlo, questa mostra vuole essere anche un po' un messaggio, perché in un momento in cui si guardava all'America, si guardava agli Stati Uniti per questo tipo di attività, di anche di pratica della condivisione, tutto il lavoro di John Giorno è basato su una critica anche all'autorialità, l'idea che la pratica artistica vada condivisa con specificità diverse, e in un momento in cui non guardiamo più agli Stati Uniti, che invece contraddistinguono la loro attività per violenza, certo, sopraffazione, distinzione tra le persone, ci piace anche lanciare un messaggio attraverso questa mostra, che vorremmo ricominciare a guardare gli Stati Uniti per questi motivi.